ciò che ho detto ieri da, ieri da. Io già le mie risposte e tu le sai già, prima che l'alba arrivi su di noi. Non tornerò più indietro prima di dirti cosa c'è nel mio cuore. Forse sai di quest'amore, forse sai. Adesso che tu sei qui vicino a me, vorrei restare con te. Adesso che tu sei qui vicino a me, un soffio di vento ora si è alzato. La natura è strana, un soffio che verrà, una nuova vita ci sarà, ci sarà. Una nuova vita ci sarà, e dal fiore che verrà, una nuova vita crescerà. Nascerà il tuo bambino, correrà in questo prato, dove un arcobaleno ci sarà. Star con te adesso che tu sei qui vicino a me, vorrei restare con te adesso che tu sei qui vicino a me, vorrei restare con te adesso che tu sei qui vicino a me. Yeah.